presa, sono un passo da lasciarmi andare. Giù fino a dove sei tu, le caramelle non mi tengono su. Non sono una santa, sono un'altra avvelenata, ci sono ricascata. Giù fino a dove sei tu, i genitori non si baciano più. Cosa sei? Solo un'altra avvelenata. Sarà solo una bugia, maledetto. Tu, tu, tu.